Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Ulisse Lendaro, regista del docufilm La Santa di Brooklyn, online su My Movies all'interno dello Sguardi Altrove Film Festival. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Federico e grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione. Ce lo presenti? La Santa di Brooklyn è la storia di Chiara, che è una pugilessa della iconica Gleason's Gym di Brooklyn, New York, che ha una radiosa carriera davanti a sé. Improvvisamente però un terribile incidente sul ring sembra porre fine a tutte le sue ambizioni. E in questa profondità di questa sua disperazione, per non poter più combattere, Chiara trova nella fede la forza per risorgere dalle proprie ceneri. E in qualche modo diventa una nuova santa guerriera che si muove tra le strade, tra i vicoli di Brooklyn, pronta a risalire sul ring e a trovare non solo il suo posto sul ring, ma anche il suo posto nel mondo. Come nasce questo lavoro? Nasce dall'idea di realizzare un nuovo film che vedesse come protagonista una donna, una giovane donna, in questo caso una trentenne, e che però potesse essere rappresentata questa storia all'interno di un'arena molto particolare, che era l'arena del pugilato. E guardando quale fosse il posto, avevo individuato la Gleason's Gym di Brooklyn per trovare questa storia. La Gleason's Gym è un posto dove hanno girato 26 film all'interno di questa palestra di pugilato, oltre che essere una palestra di pugilato dove si sono allenati tutti i più grandi del passato e del presente, i più grandi pugili. Individuato questo contenitore, mi sono messo alla ricerca del character, no, della protagonista, e inizialmente mi immaginavo una ragazza di colore che venisse dai sobborghi di Brooklyn, e poi mi sono imbattuto sempre facendo una ricerca sul web, così in questa sorta di apparizione, per stare in tema un po' religioso e spirituale, che era di questo angelo biondo, quindi di Chiara, che però non era molto presente sui social 2 o 3 anni fa, proprio perché era in fase discendente della propria carriera a seguito di questo incidente. Mi sono messo a spulciare un po' di più, sono riuscito a contattarla e l'ho provinata in qualche modo, ho fatto delle interviste con lei in video call, e mi è sembrata la persona giusta sulla quale scrivere poi questo documentario, che è un documentario ma è anche un film, perché ci sono parecchie parti di finzione. Chiara, anche durante le interviste, era una ragazza molto schiva e molto asciutta nelle risposte. Basti pensare che io le chiedevo di sé, le sue risposte erano sempre sì, no, non è che mi spiegasse molto di sé, quindi ho avuto un po' di difficoltà a entrare un pochino in sintonia con lei, però poi il lavoro ci ha ripagato di tutto, perché è un lavoro molto vero e anche molto cinematografico, proprio per le location, i luoghi e la modalità in cui è stato girato. Tieni presente che l'abbiamo ripresa anche durante 3 incontri veri nell'arco di 12 mesi e sono state cose molto sofferte, anche perché non tutti gli incontri sono andati come dovevano andare sulla carta, e poi lei stava rientrando sul ring dopo questo incidente che l'ha segnata in qualche modo a vita. Lei insomma quotidianamente fa i conti con questa sua lesione cerebrale a seguito di questo incidente avuto sul ring, che noi raccontiamo e che noi vediamo nel film. Chiara tra l'altro è un'italo-americana, perché Chiara di Turi, e questo è stato forse un po' un segno del destino, non lo so, perché io non stavo cercando in realtà un'italo-americana, però è molto figa, passami il termine, cinematograficamente parlando, la sua storia, perché nasce e cresce in questo quartiere italo-americano che si chiama Bensonhurst. Adesso la comunità è diventata molto piccolina perché quasi tutti gli italiani che una 40 anni fa sono andati lì si sono trasferiti a Staten Island, ma lei con quello che resta della sua famiglia, perché come lei stessa la definisce, una famiglia rotta, lei dice la mia famiglia era letteralmente rotta, mio fratello è sempre stato, da quando io ho ricordi di lui, sotto scacco della droga, quindi un drogato, i miei si sono separati, non ho mai avuto una figura paterna e mia sorella mi ha un po' abbandonato, e io ho trovato nello sport da combattimento l'unica salvezza per la mia anima e per il mio fisico. Poi però c'è stato questo incidente che mi ha voluto in qualche modo ributtare a terra, ma io mi sono rialzata e attraverso questo sentimento religioso, spirituale, ho ritrovato la forza di rimettermi sul ring. Quindi lei, tra l'altro, è pugliese di origine, i suoi genitori arrivano da Mola di Bari e lei è molto orgogliosa delle sue origini italiane e questa cosa si vede, esce molto anche nel documentario, soprattutto a livello di gestualità. Ecco. Che percorso farà il documentario? Il documentario, che appunto è adesso al Festival Sguardi Altrove, è già stato preso al Dumbo Film Festival di New York come unica opera italiana, è stato preso all'East Village New York International Film Festival e farà principalmente la strada dei festival del cinema. Questo per dare qualità intanto e credibilità al prodotto. Ho già avuto un paio di offerte di uscita in sala, però le valuteremo alla fine dell'anno. Attualmente appunto è anche online sul sito di MyMovie, alcuni giorni collegato appunto al Festival Sguardi Altrove. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? C'è il profilo Instagram del film che è The Saint of Brooklyn, l'abbiamo lasciato in inglese, c'è il mio profilo, quindi Ulisse Lendaro, e c'è il profilo soprattutto di Chiara Speedy Di Turi, perché Speedy è il suo soprannome da pugile, visto che lei è estremamente veloce, Speedy Di Turi, e lei sarà super felice di essere seguita e anche di poter rispondere insomma alle domande dei follower che le possono scrivere riguardo alla sua carriera, alla sua vita a Brooklyn e anche all'esperienza di questo film. Ecco, lei stessa è rimasta molto sorpresa dell'esito e del risultato di questo film e lo sta promuovendo molto. Poi ci tiene tantissimo al pubblico italiano, ecco. Il docufilm La Santa di Brooklyn in streaming su MyMovies all'interno dello Sguardi Altrove Film Festival. Un saluto e un ringraziamento al regista Ulisse Lendaro. Alla prossima! Grazie, grazie a tutti, grazie Federico, un abbraccio a tutti. Con Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione per presentare il film Okage, Ombra di Fuoco di Shinya Tsukamoto al cinema da giovedì 13 marzo 2025. Ben trovato! Ciao, buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Ce ne parli? Okage, Ombra di Fuoco è l'ultimo film di Shinya Tsukamoto presentato a Venezia nel 2023 e la sua uscita, per quanto in ritardo, in realtà va a supplire una mancanza storica, ossia della gran quantità di film del regista mai distribuiti in Italia. Il suo unico film distribuito è stato A Snake of June nel 2003. E per quanto tutti gli altri film siano passati da un certo momento in poi al Festival di Venezia, non c'è mai stata una vera e propria distribuzione. E noi abbiamo deciso di supplire a questa mancanza storica partendo dalla sua ultima opera, che è un dramma post-bellico ambientato nel Giappone del dopoguerra, per quanto poi non vi siano coordinate precise date del film, in cui vengono seguiti questi tre personaggi devastati e alla ricerca di una nuova identità. Cosa vi ha convinto del film? Per quanto lo stile di Tsukamoto si sia evoluto e sia diventato più delicato, più maturo, ci ha convinto il suo essere sempre totalmente per i personaggi e soprattutto per i corpi dei suoi personaggi, il loro subire il mondo e il loro cercare una rivalsa. È un film molto fisico, dove c'è prostituzione, vendetta. Per quanto il protagonista sia principalmente un ragazzino, è proprio un film di sensazioni, di disperazione ed è ricco di energia espressiva. Che ci dici della sua filmografia? Che percorso ha fatto? La filmografia di Shinya Tsukamoto è unica nel suo genere, sia a livello giapponese che internazionale, perché lui inizia nella propria adolescenza a fare film e il suo primo lungometraggio ufficiale è Tetsuo del 1989, quando lui ha 24 anni. E sia allora come adesso lui cura ogni aspetto dei suoi film, la regia, la sceneggiatura, la fotografia, il montaggio e molto spesso interpreta i suoi film. E il suo primo film e molti di quelli a seguire sono delle esplosioni di energia proprio incontrollabile, perché si inizia col cyberpunk, col body horror e pian piano si arriva a un cinema che tocca altri argomenti, oltre a quello della fisicità, dell'inquinamento del corpo e delle mutazioni, ma pur rimanendo ad ogni modo ancorato a questa dimensione di metamorfosi che qualsiasi storia lui mette in scena contiene. Che percorso ha avuto a livello internazionale? Come ricordato da poco anche da Tsukamoto stesso, l'Italia è la seconda patria di Tetsuo e di tutta la sua filmografia, perché il suo percorso internazionale inizia nell'89 quando Enrico Ghezzi lotta per avere Tetsuo al Fanta Festival, dove vince, per quanto proiettato senza sottotitoli, pur avendo pochissimi dialoghi, il film non era sottotitolato, e dal 1998 in poi tutti i suoi film sono stati presentati a Venezia ad eccezione di un paio, e se il trampolino di lancio fu nel 1989, ad oggi la vetrina, il luogo dove i suoi film diventano pubblici, rimane l'Italia. Ci dai i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Tutti gli aggiornamenti sulle proiezioni di Okage e degli altri film di Tsukamoto che usciranno al cinema nelle prossime settimane sono su catpeople.it e sui social di Catpeople Distribuzione. Il film Okage, Ombra di Fuoco di Shinya Tsukamoto al cinema da giovedì 13 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tavola di Catpeople Distribuzione. Alla prossima! Ciao Federico, ciao a tutti, grazie. Con Vittorio Rifranti, regista del film Altrove, al cinema da giovedì 13 marzo 2025, ben trovato. Grazie, grazie. Come lo presenteresti? È un coming of age, forse, soprattutto. È una storia di crescita, è una storia di svolta che coinvolge un gruppo di ragazzi che sono giovani, ma forse ancora non hanno affrontato le vere svolte della vita e si trovano, senza volerlo, ad affrontarne una molto grossa, diciamo così. Quindi è un film di crescita, sicuramente. Come nasce? Nasce dall'esigenza di raccontare un gruppo di ragazzi in luoghi che per me hanno un valore personale, perché sono i luoghi delle mie vacanze giovanili. Non è autobiografico, però indubbiamente c'è un sentimento, anche se naturalmente generazionalmente sono molto lontano da loro ormai, però c'è soprattutto un sentimento, un'emozione che è avere vissuto quei luoghi, averli vissuti più o meno alla loro età, e quindi la voglia di raccontare una storia completamente inventata, ma dentro quei luoghi e dentro soprattutto quell'età lì che avevo voglia di raccontare. Su quali elementi hai voluto centrarla? Forse una delle cose che volevo esprimere era raccontare dei ragazzi con un'anima, che sembra una cosa un po' pomposa e forse allo stesso tempo banale dirla così, ma io mi insegno regia a giovani ragazzi e li trovo molto più interessanti e più profondi di quanto a volte si voglia far passare i giovani. Diciamo, l'esigenza era di raccontare personaggi che avessero una loro coscienza, una loro sensibilità e ovviamente le loro contraddizioni, anche il loro cinismo a tratti, però capaci anche di comprendere delle cose. Poi c'era un po' la voglia di raccontare anche il rapporto che questo gruppo di ragazzi ha con le immagini che loro filmano, con quello che rivedono o non riescono più a rivedere, no? Quindi anche un po' una cosa abbastanza contemporanea, anche se la storia nasce un po' di anni fa, perché poi ha avuto varie vicissitudini produttive, ma credo che in fondo il discorso forse all'epoca era un po' anticipatorio, adesso diciamo è più una fotografia forse dell'esistente. Com'è stata la scelta e il lavoro con attori ed attrici? Il gruppo di ragazzi l'ho scelto con varie modalità, alcuni li conoscevo perché hanno studiato recitazione in una delle scuole dove insegno, quindi ho visti crescere, due di loro li ho scelti così, che sono poi Nicola Mantovani e Samuele Satta. Camilla Tedeschi invece avevo già lavorato con lei nel mio precedente film Ferite, quindi insomma l'ho scelta senza casting, invece Aliun Badiane e Elisabetta Tozzato li ho scelti vedendo loro proposte, self-tape, provino, eccetera, quindi sono state scelte abbastanza diversificate, però ho cercato di creare un gruppo, soprattutto ho cercato attori che avessero qualche, secondo me, affinità con i loro personaggi, perché mi sembrava che questo fosse interessante anche come loro percorso, diciamo, ovviamente non un'identità totale, ma insomma alcuni elementi di contatto, di tangenza con i loro personaggi. C'è stata anche dell'improvvisazione o hai lavorato strettamente sul testo? C'è stata un'improvvisazione molto forte in quella che poi è la scena forse clou della storia, insomma la scena di svolta, li ho lasciati totalmente liberi, era scritta quella scena, ma quando è stato il momento di girare ho detto adesso sulla base di quello che sapete dei vostri personaggi, della storia, di tutte le cose che ci siamo raccontati, andate a ruota libera. E lì c'è stata un'improvvisazione totale, partendo ovviamente da alcuni dati che loro avevano, ma sono stati molto liberi. Altri momenti abbiamo cambiato alcune cose sul set, però di improvvisazione pura c'è stata in quella scena lì, che è una scena importante, e per il resto ho cercato di trovare insieme a loro a volte la modalità migliore per dire determinate cose, ma loro avevano anche un po' bisogno di ancorarsi ad alcune certezze, insomma, per cui la libertà di improvvisare totale non ho potuto dargliela, anche se mi sarebbe piaciuto, perché giustamente forse si sarebbero un po' persi e la storia aveva bisogno di una struttura comunque solida, quindi non potevamo andare da qualsiasi parte. Però in quella scena che avviene più o meno a metà della storia e che è la scena di svolta, lì secondo me improvvisando hanno fatto davvero un lavoro molto molto buono. Il titolo come viene fuori? Sia da un titolo che mi sembrava evocativo in qualche modo e poi dall'idea che ho sempre avuto e che poi parlando con i ragazzi ritrovo, che in fondo ci sono delle età durante le quali si vorrebbe sempre essere un po' da un'altra parte, si vorrebbe sempre essere altrove, appunto, perché c'è un disagio rispetto a quello che si vive, un senso di inadeguatezza, ed è una cosa che ho sentito io da giovane, ma insomma sento molto nei ragazzi con i quali parlo, e quindi mi piaceva un po' l'idea di un titolo evocativo che può anche non essere chiarissimo, ma a me piacciono i titoli un po' anche appunto interpretabili, ma nella mia intenzione questo era il senso del titolo. Che tipo di distribuzione avete scelto? La distribuzione è di Movie Cinema, che è una società collegata alla produzione che ha reso possibile il film, e stanno organizzando teniture brevi e serate evento in presenza del regista, degli attori, e il tipo di distribuzione che alla fine è stata decisa, che sì, è comunque interessante perché ci permette di incontrare pubblico e poi in alcune situazioni riusciremo a tenere, diciamo, un po' di più il film, in altre sarà solo la serata, però sono sempre confronti interessanti. Poi arriverà la piattaforma molto presto, che sarà Amazon Prime, però diciamo che il piacere di vederlo al cinema credo che sia sempre, per un film così, tra l'altro ambientato in luoghi di mare, verso la fine di un'estate, così, chi l'ha visto al cinema, chi l'ha visto prima nello schermo del computer ha detto che guadagna tanto vederlo al cinema, forse questo vale per ogni film, poi sappiamo che la maggior parte lo vedranno sulle piattaforme, come è successo anche col mio film precedente, è abbastanza ormai inevitabile questa cosa. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Ci saranno delle comunicazioni, poi stanno ancora definendo delle date, e poi sulla mia pagina Instagram, Facebook, sulla pagina Instagram della produzione, che è UpMovie, sicuramente ci saranno aggiornamenti man mano. Adesso abbiamo già un po' di accordi con alcuni cinema, però da fissare ancora la data o le date, e man mano che verranno comunicate, sì, ci sarà un aggiornamento costante sul viaggio che farà il film. Il film Altrove al cinema da giovedì 13 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Vittorio Rifranti. Alla prossima. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Con Paola Casella, una delle curatrici della 32esima edizione di Sguardi Altrove, Women's International Film Festival a Milano dal 12 marzo al 7 aprile 2025. Ben trovata. Ben trovati a voi, è un piacere essere con voi e parlare di questo festival che ho nel cuore, perché ormai sono diversi anni che partecipo come selezionatrice e curatrice. Come si caratterizza questo festival? Ovviamente al centro c'è la regia al femminile, nel senso che appunto da sempre è un festival, e tra l'altro credo il primo in Italia che si è occupato di mettere a fuoco il tema della regia esclusivamente femminile. Quest'anno ci siamo allargati sia in termini di spazio che in termini di tempo, perché appunto la durata è piuttosto lunga, quasi un mese, e gli spazi si sono allargati, perché dall'essere un festival che si svolgeva solo nel centro di Milano adesso si è allargato anche alla periferia e anche al di là della periferia della città. Cerca di raggiungere un po' tutti e soprattutto un po' tutte, per far vedere quanto si sia moltiplicato anche il panorama delle registe donne. Io poi sono stata selezionatrice anche della Settimana della Critica e degli European Film Awards, e mi rendo conto di come la presenza femminile sia diventata veramente enorme. Quante sono le opere presentate e saranno accompagnate dalle autrici? Le autrici accompagnano laddove possibile e sono veramente numerose quelle che riescono a esserci, quasi tutte le opere presenti. Ci sono 3 sezioni di concorso e all'interno di queste sezioni di concorso il numero si aggira sulle 10-15 titoli. Le 3 sezioni sono Nuovi Sguardi, che è quella di cui io sono proprio direttamente selezionatrice, che riguarda i lungometraggi internazionali diretti da donne. Poi c'è la sezione Sguardi Sconfinati, che invece riguarda i corti, sempre di regia femminile, al di sotto dei 35 anni, perché è lì che si scoprono proprio i nuovi talenti femminili. E poi c'è una terza sezione competitiva, che si chiama Frame Italia, che riguarda invece il cinema indipendente italiano, e lì la regia è sia femminile che maschile. Da quando sei arrivata, che trasformazioni e che continuità ha il festival? Come continuità c'è non solo la direttrice artistica Patrizia Rappazzo, che è veramente una combattente e da sempre guida questo festival in porto ogni anno tra mille difficoltà, perché chiaramente i budget non sono enormi, ma il numero invece delle registe che mandano i loro film per essere selezionate al festival è sempre crescente. Ed è proprio per quello che dicevamo prima, questa è la più grande differenza che notiamo nel tempo, cioè che non è più una questione di andare noi a cercare loro e magari avere anche qualche difficoltà a trovare un numero sufficiente. Adesso ci sono veramente tantissime registe e sono tantissime le produzioni che mandano al festival i loro film per essere selezionati, per cui il lavoro nostro di selezionatrici diventa sempre più difficile. Tra l'altro sottolineo che con me c'è Sabina Berra, che fa un lavoro eccellente sulla sezione Nuovi Sguardi, ma soprattutto appunto ci troviamo con questa mole enorme di lavoro perché le registe sono sempre più numerose e sempre più brave. Per la tua sezione com'è stata la scelta? Anche qui è stata una scelta abbastanza tosta, perché veramente avremmo voluto poter mettere in concorso ancora più titoli, ma chiaramente non si può fare una sezione monster. Abbiamo riscontrato innanzitutto che le protagoniste femminili sono veramente combattive e assertive, anche laddove vengono da paesi dove invece la situazione è veramente difficilissima. Parlo del Sudan, parlo del Kosovo per esempio, cioè paesi in cui veramente ci sono delle situazioni anche di discriminazione proprio nei confronti delle donne molto forti. Però qui invece non si parla mai di vittime, si parla sempre di combattenti. E non abbiamo dimenticato anche gli uomini, perché naturalmente ci sono anche uomini protagonisti di questi film, sempre a regia femminile, che sono molto interessanti. Mi viene in mente per esempio il medico palestinese che è protagonista di I Shall Not Hate, che è un documentario. Questo medico è emigrato in Canada dopo che 2 delle sue figlie sono state uccise in Palestina, e sceglie di ritornare portando i figli sopravvissuti a vedere qual è la situazione oggi, e il titolo del film, che dice I Shall Not Hate, quindi non odierò, dà proprio la misura dell'atteggiamento con cui fa questo, cioè vuole che i suoi figli diventino testimoni di quello che sta succedendo senza per questo cavalcare l'ondata di odio che, avendo appunto avuto 2 figlie uccise, potrebbe essere assolutamente nelle sue corde. Quindi appunto ci sono personaggi sia femminili che maschili veramente interessanti nel loro raccontare un po' come stanno diventando oggi gli uomini e le donne e come si rapportano con la realtà anche molto molto difficile. I riferimenti web per tutti i dettagli del programma? C'è proprio il sito Sguardi Altrove Film Festival, poi naturalmente oltre al sito web ci sono Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, X. 32esima edizione di Sguardi Altrove Women's International Film Festival a Milano dal 12 marzo al 7 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Paola Casella. Alla prossima! Grazie, grazie a voi, è stato un piacere. Con Anna Maria Gallone, codirettrice artistica della 34esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, a Milano e in streaming su mymovies.it dal 21 al 30 marzo 2025. Ben trovata. Grazie, eccoci. Spieghiamo cos'è. È l'unico festival dedicato ai 3 continenti che si svolge in Italia, Milano, un festival ricco di sezioni, quest'anno poi anche ricco di novità. Diciamo, riassumendo brevissimamente, che c'è un concorso internet che presenta film appena usciti. Ecco, bisogna precisare che tutti i nostri film, 44, di cui 23 sono prime nazionali, quasi tutte prime nazionali, c'è anche una prima mondiale, quindi noi scegliamo sempre film recentissimi. Poi c'è un concorso cortometraggi che è un po' la pepiniera del festival, i giovani registi, quest'anno poi tutto il festival all'insegna del giovane, i giovani registi che partecipano con cortometraggi, questo è tutto africano, mentre Le finestre sul mondo è aperto ai tre continenti, questo proprio dedicato solo all'Africa. Poi segue ancora una sezione extra che è molto interessante, perché lo sguardo degli italiani o degli stranieri residenti in Italia sui tre continenti. Poi abbiamo anche una sezione che riguarda la commedia, un flash che quest'anno si chiama Flash, di un regista cinese che parla di un giovanissimo che soffre di bullismo e che invece si lancia insieme ad altri compagni di strada nel calcio e ha successo. Poi abbiamo tante tavole rotonde, una, quella tradizionale ormai di Edu, African Talks, che si chiama appunto In My Name, Giovani Atinesu in Africa, e io vorrei proprio sottolineare invece la retrospettiva che dedichiamo quest'anno a un autore messicano, e si tratta di Alonso Ruiz Palacios, in collaborazione con la Fondazione Prada, e sarà proprio il film Cocina di questo regista messicano ad aprire la nostra kermesse. Ci saranno autori ed autrici a presentare i loro lavori? Certo, quest'anno sono molto più numerosi dell'anno scorso, quasi tutti saranno presenti e quindi questa è una grossa soddisfazione. Che direzione sta prendendo il festival? Tra i 600 film che abbiamo visionato, come ogni anno, che la giuria ha visionato insieme a me e Alessandra Speciale, che è l'altra direttrice artistica del festival, abbiamo scelto i film che sono in maggioranza film molto legati all'attualità. E infatti ben 4 registi sono palestinesi. Molto interessante l'esperimento fatto da Rashid Mashaoui, che è il grande regista palestinese, che ha incoraggiato 22 giovani a raccontare in brevi minuti la realtà di Gaza oggi. Poi c'è anche proprio il suo film Passing Dreams, quindi abbiamo voluto sottolineare quello che sta succedendo in Palestina. Non solo, ma anche Khartoum, ad esempio, che è un film splendido e racconta la guerra in Sudan, le conseguenze e come la vive la gente del popolo. Quali saranno i luoghi e gli orari del festival? L'apertura da Prada e tutta la retrospettiva di Ruiz Palacios a Prada, poi tutti i film si svolgeranno all'Arlecchino e la chiusura al San Fedele secondo la tradizione. Gli orari sono sempre, partono nel primo pomeriggio e arrivano fino quasi a mezzanotte, e comunque nell'Arlecchino abbiamo trovato un cinema che risponde assolutamente a quelle che sono le nostre necessità, e sempre all'Arlecchino si svolgeranno le varie tavole rotonde. Quest'anno poi abbiamo nuovi partner, abbiamo anche un panel speciale in cui parleranno una regista e una produttrice, parleranno delle cooperazioni con la Svizzera, delle piattaforme delle varie coproduzioni, e ancora un inizio di collaborazione con il PAR, si chiama così, nuovo luogo di cultura a Milano. Visto che seguite più continenti, quali sono le aree geografiche più vivaci dal punto di vista cinematografico? C'è un risveglio incredibilmente interessante e intenso per quanto riguarda l'America Latina, infatti abbiamo diversi film dell'America Latina, poi c'è sempre il fascino dei film orientali che hanno un loro stile molto particolare, e anche l'Africa quest'anno è presente in modo veramente interessante, perché abbiamo appunto Khartoum, che è un film del Sudan, abbiamo Listen the Voices, che è nella Guyana francese, e poi ancora The Settlement, che è l'Egitto. Sono film di grande fervore, cioè veramente c'è un'intensità nel raccontare queste storie che colpisce moltissimo. Altra novità piacevole: nel concorso cortometraggi quest'anno per la prima volta ci sono ben 3 deliziose animazioni. I riferimenti web per tutto il programma? Come dicevo, su My Movie One si possono vedere quasi tutti i film. E poi Festival, semplicemente, su tutti i social che è presente. 34esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano e in streaming su mymovies.it dal 21 al 30 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Anna Maria Gallone. Alla prossima! Grazie a voi, ciao! con Sara Reginella, regista del documentario Green Citizen, in proiezione ad Ancona, al Cinema Azzurro, lunedì 24 marzo 2025. Ben trovata. Grazie. Ci presenti il tuo lavoro? Green Citizen è un documentario che nasce da una collaborazione tra più realtà, nel senso che a questo progetto hanno partecipato le Brigate di Solidarietà Attiva, il Circolo Naturalistico di Fungitopo e delle realtà militanti anconetane legate, no, alle battaglie ambientaliste e persone che appartengono alle comunanze agrarie della zona dei Sibillini. In qualche maniera volevo rappresentare quello che unisce la militanza urbana della lotta ambientalista a quei mondi che già vivono in una sorta di sostenibilità ecologica che è legata ad una serie di tradizioni del passato che in qualche maniera aiutano anche ad abbattere quelle che sono delle disuguaglianze, perché un po' la specialità di questo documentario è stata quella di raccontare il mondo delle comunanze agrarie, dette anche proprietà collettive. Sono delle realtà che esistono in tutta Italia, specialmente in zone montane, tra le quali appunto gli Appennini e i Sibillini, e queste comunanze agrarie sono delle aree, diciamo così, dove le persone possono in qualche maniera godere dei beni che appartengono a quei territori, che si connettono a quello che si chiama l'uso civico, quindi c'è il diritto di godimento, che ne so, sull'acqua, sul pascolo, su, mi viene in mente, il legnatico, i boschi, le terre coltivabili. C'è una sorta di condivisione tra gli abitanti del posto di questi beni. Che vuol dire questa cosa teorica che ho detto in pratica? Beh, per esempio che nel documentario vengono mostrate le assemblee dove gli abitanti della comunanza agraria di Porta di Montegallo si riuniscono per la manutenzione dell'acquedotto. Che cosa significa questo? Che loro non pagano l'acqua, perché l'acqua è un bene comune che si connette appunto all'uso civico e quindi ne possono godere, però devono fare la manutenzione dell'acquedotto. Ci sono tutta una serie di cose che devono fare, però ecco una cosa che ci tengo a dire è che non è tutto rose e fiori, nel senso che qualcuno dice ah che bello, hai fatto il documentario, la gente che condivide le cose. No, non è assolutamente così, perché in realtà portare avanti questo tipo di realtà e di lotta in Italia oggi è difficilissimo. Infatti racconto, non so, ad esempio la battaglia per i pascoli, perché appunto questi territori che potrebbero essere goduti dalle persone del posto in realtà fanno gola anche, no, ad altre realtà che invece vogliono sfruttare territori, togliendono alle persone che li vivono, che li abitano, quindi le persone sono organizzate per fare delle battaglie, oppure che ne so, per mantenere vivi ad esempio i castagneti ed evitare che magari determinate aree siano prese dalle multinazionali che poi, no, portano degli altri tipi di cultura che non sono adatti al territorio, che quindi lo vanno a distruggere, lo vanno a sfruttare e il cui ricavato poi viene dato, no, a terzi, quindi non ne godono le persone del posto. Quindi non è un documentario sul quanto è bello di vivere insieme, ma quanto è dura la lotta, la resistenza in questi anni. Il documentario è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Marche, della Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, e lo proietteremo appunto per la prima volta lunedì alle 21 al Cinema Azzurro ad Ancona. Come l'hai strutturato il documentario? Il documentario, diciamo che ha una cornice, chiamiamola così, che racconta una sorta di assemblea che avviene appunto tra queste persone sensibili alla lotta ambientalista che vivono in città. E quello che si dicono, quindi i discorsi, i ragionamenti che fanno legati appunto alla volontà di creare un sistema ecologicamente sostenibile, si connettono a quello che succede direttamente sul posto, sugli Appennini. Quindi i due mondi, quello cittadino e quello montano, che in qualche maniera si incontrano e si scontrano. Ed è un documentario dove appunto mi sono proprio tuffata, no, sul posto, nelle realtà, a contatto con le persone. Non è stato semplicissimo, perché non è che ti presenti in montagna e ti dico ah sì che bello, vieni qua, riprendi, no, non funziona proprio così, quindi ci vuole giustamente del tempo e quindi voglio mostrare quelle realtà. Ma ecco, non è un documentario per dire ah che bello, adesso andate lì come tu turisti, no, anzi in questo documentario viene spesso espressa moltissima rabbia contro il turismo di massa, il turismo che non ha rispetto di quei territori, no, si parla di divertimentifici, quindi queste zone montane spontanee che vengono adibite a luoghi per cretini che vanno lì per fare la mangiata e passata abbiano se la pecorata attraversa per strada, perché non va bene che ci siano le pecore in montagna, perché il turista liberista deve essere libero di fare quello che vuole, quindi la pecora e la mucca vanno bene per fare le fotografie, però poi se c'è il gregge che attraversa la strada non va bene, e le persone di quei territori sono arrabbiate con i turisti che arrivano con questo tipo di violenza suprematista rispetto, no, alle dinamiche e gli equilibri del posto. Quindi sto lì, mostro, faccio parlare le persone e racconto, ecco, diciamo, non è che c'è una voce narrante, sono le persone che parlano da sé, sono le persone che vivono e mostrano quello che accade anche nei momenti di festa, nei momenti di dolore, ecco, nella vita che c'è. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Si possono seguire i social a partire dal mio profilo, Sara Reginella. Il documentario Green Citizen, in proiezione ad Ancona al Cinema Azzurro lunedì 24 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Sara Reginella. A presto! A presto! Con Matteo Pavesi della Cineteca Milano per presentare la mostra La Pop Art di Bruno Bozzetto. Dal 15 marzo al 30 novembre 2025, ben trovato. Grazie dell'invito. Sì, sì, la mostra parte appunto il 15 al Museo Interattivo Cineteca Milano. È una mostra che ha una chiave forte di interpretazione dell'opera di Bruno Bozzetto, e cioè che Bruno Bozzetto è consapevolmente o inconsapevolmente un grande artista di pop art, per cui i temi cari alla pop art, ma anche i colori, i soggetti, questo rapporto tra consumo e arte attraversano un po' tutto il percorso molto articolato di Bozzetto. Quindi questa è la logica con cui abbiamo allestito questa mostra, che comprende moltissimi materiali, a partire dai rodovetri dei suoi lavori, che sono tantissimi, oltre ai più famosi lungometraggi ci sono una quantità infinita di cortometraggi, a disegni, a schizzi preparatori, a manifesti, ma anche ai gadget di ogni tipo legati alle grandi sigle televisive come Isotta, Portobello, il Bassotto Poliziotto, che hanno prodotto nel tempo, oltre che 45 giri, anche tutto un merchandising molto interessante che ci racconta proprio un'epoca di consumo e di gadget legato al lavoro di Bruno, fino ad arrivare poi al Bruno più contemporaneo, quello che lavora per in rete con un linguaggio nuovo, ma anche quello che torna a fare le vignette e uno spazio dedicato all'ultima sua creatura, che è la cagnolina Doggy, che è un po' una delle ultime trasformazioni di Bruno, con un'attenzione particolare al mondo degli animali. Quindi anche questo tema è ben presente. Il museo interattivo mette a sistema questa mole incredibile di materiale e quindi lo articola anche in giochi, in fotografie interattive, in karaoke con le canzoni. Ci sono dei mini cinema in cui si possono vedere tutti i cortometraggi di Bruno, che sono davvero tantissimi. Quindi l'invito è venire e divertirsi a una mostra molto pop. Ogni domenica faremo poi un appuntamento con l'animazione di Bruno e l'animazione internazionale, che ci accompagnerà fino a fine novembre. Com'era nata l'esigenza di questa mostra? Il rapporto con Bozzetto dura da molto tempo. In passato Bruno ci aveva depositato tutte le pellicole, sono stati fatti i lavori di restauro e poi gli ultimi lavori, appunto Doggy, ma anche Sapiens, che è un ultimo lavoro proprio disegnato. E a volte le cose che si hanno un po' sotto il naso, perché ci sono dei rapporti lunghi eccetera eccetera, sono le ultime che ci vengono poi in mente di valorizzare, per cui abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di fare una mostra seria, fatta bene, un regalo importante a un artista di valore internazionale. Bruno è davvero un artista senza frontiere, e da quest'idea abbiamo avuto un lungo periodo di progettazione, perché il materiale è davvero enorme, per cui una parte di questo materiale è stato restaurato e poi comunque l'abbiamo poi incasellato in un percorso che ha una sua logica. Il nostro auspicio è che chi viene a trovarci, oltre che divertirsi, perché è difficile divertirsi nelle mostre, ma questa diverte molto, entri in questo mondo di Bruno, in questo gioco fantastico che è stata tutta la sua creatività da oltre 60 anni a questa parte, per cui è una bellissima esperienza sia per i grandi che hanno magari conosciuto Bruno al cinema, sia per i piccoli, perché le immagini, anche se uno non conosce Bruno, sono immagini molto molto divertenti, molto belle. I riferimenti web per tutti i dettagli? cinetecamilano.it sulla mostra, la pop art animata di Bruno Bozzetto. Nel complesso quante sono le opere? Le opere esposte sono circa un centinaio, su supporti diversi, anche qui abbiamo da oggetti originali a manifesti restaurati, a sticker, a riproduzioni in forex. E l'opera di Bruno ci siamo anche divertiti, a seconda dell'oggetto, di utilizzarlo in modo molto, molto libero. E poi ci sono un'ottantina di cortometraggi che si possono vedere nei mini cinema. E poi ci sono diverse applicazioni che raccontano pezzi del Signor Rossi, pezzi dei suoi lungometraggi. La mostra La Pop Art di Bruno Bozzetto a Milano al Museo Interattivo del Cinema dal 15 marzo al 30 novembre 2025. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Pavesi della Cineteca Milano. Alla prossima! Grazie a voi! Con Isabella Mari, regista del documentario Si dice di me. Bentrovata. Buongiorno, ciao Federico, grazie. Ci presenti questo tuo lavoro? Si dice di me è un documentario realizzato in 4 anni di gestazione che racconta la storia di Marina Rippa, ma non solo. Marina Rippa è un po' la cassa di risonanza a sua volta di una serie di donne che nel corso degli anni ha ascoltato e che ha fatto raccontare attraverso dei laboratori teatrali di cui lei stessa si occupa sul territorio di Napoli non solo da oltre 10 anni, ma a Forcella proprio quest'anno con un gruppo anche abbastanza consolidato da 18 anni. Lo fa in un quartiere di Napoli non semplicissimo e con delle donne che hanno alle spalle delle vite molto particolari e molto delicate, e grazie però alla sua dedizione e alla cura che ha nei riguardi di queste donne e del rapporto che ha costruito con loro negli anni attraverso l'arte, anche la vita di queste donne è cambiata ed è diventata qualcos'altro di forte, che mi sembrava insomma bello raccontare in questi anni di osservazione e conoscenza delle loro attività. Com'è partita l'idea del documentario? È venuta fuori un po' in corso d'opera, diciamo, perché sono stata portata lì senza sapere tanto di questo laboratorio, in quanto Marina Rippa cercava una donna che potesse seguire le lavorazioni di una sua performance, che in quel caso era Ribelle, Scommenze, Ribellioni e altre faccende, una performance del 2020 che non è mai andata in scena, però cercava qualcuno che potesse seguire questo lavoro dall'inizio, qualcuna. Perché durante la costruzione dei laboratori è sempre meglio essere donne per far sentire libere anche le protagoniste di esprimersi. Quindi chiede di qualcuno che possa seguire la lavorazione di questa performance attraverso una semplice documentazione e insomma vengo spedita in missione dalla mia produzione, diciamo così, e seguendo i lavori ogni lunedì e ogni giovedì di laboratorio, niente, mi innamoro di queste donne e nel momento del Covid in cui anche le loro attività si sono fermate, io rifletto e mi rendo conto del fatto che in questa mera documentazione c'è del materiale da approfondire e per poter raccontare una storia importante. E quindi sì, nel corso del tempo questa documentazione è diventata qualcos'altro, anche e soprattutto grazie poi al lavoro successivo della montatrice Lea Di Cussi, che arriva 3 anni e mezzo dopo la realizzazione di questo materiale e con me insomma riesce a raccontare questa lunga storia. Che impressioni ne hai ricavato? Questo è difficile perché ci sono tante impressioni che ho ricavato nel corso del tempo, soprattutto nel momento in cui arrivi al laboratorio per la prima volta con queste donne splendide, piene di energia, che in un secondo ti fanno ridere, piangere, poi piangere da ridere. Ne ricavi sicuramente una ricchezza fatta di rapporti umani, di relazioni, ma anche una scoperta di, diciamo, fortuna nell'aver avuto la possibilità di poter seguire queste storie ed essere anche diventata parte di questo mondo fatto di sorellanza pura, veramente pura, e di un affetto e di una cura sincere nei riguardi di questo piccolo grande lavoro che loro fanno ogni anno, tutti i giorni, attraverso appunto questa resa, poi nelle performance, che in realtà è solo la parte finale di tutto quello che succede durante la realizzazione e la preparazione di queste performance. Che tipo di distribuzione hai pensato per il tuo documentario? Adesso stiamo proprio lavorando con la speranza di riuscire a accaparrarci qualche altro festival dopo la prima, la Festa del Cinema di Roma, e anche un premio che mi ha resa molto contenta alla 49esima edizione della Cena d'Oro. Però, finita la parte festivaliera, che spero arriverà il più tardi possibile, ci piacerebbe riuscire a portarlo nelle scuole e lavorare con associazioni che si occupano di donne, ma anche di uomini, perché in tanti, guardando questo film, mi hanno manifestato il loro interesse all'idea di una Marina Ricca per gli uomini e non solo per le donne. Quindi sicuramente mi piacerebbe fare un po' anche quello che ha fatto Marina, lavorando con le mamme nelle scuole, con le mamme, con le donne, madri di figlie nelle scuole, quindi poter raccontare questa storia anche a chi sta ancora formando il proprio pensiero nelle scuole, nelle università, nelle associazioni dedicate. Quindi è questa la nostra speranza, riuscire a farlo vedere il più possibile a contesti meno formali e più reali, che possano veramente raccontare qualcosa. La scelta del titolo? Questo anche è stato un percorso abbastanza fisiologico con la montatrice e anche con Marina. Si sono fatti diversi ragionamenti sul titolo, che è cambiato diverse volte, ma alla fine ci si è resi conto di questa frase che torna diverse volte, soprattutto nella prima parte del film, di che cosa si dice di queste donne. Sono cose dette volte ad un'offesa, ad un non trattare necessariamente bene la figura che si domanda che cosa si dice di loro, soprattutto in questi contesti. E quindi è stata un po' forse anche una provocazione che poi è venuta fuori nel momento in cui ci siamo accorte di quanto questa tematica, di che cosa si dice di queste donne protagoniste, ma delle donne in generale. Ed è venuto fuori proprio questo, che sembrava il più semplice, è proprio nel film, e poi insomma è diventato titolo, ecco. Ci sono spazi web per saperne di più? Sul social di Parallelo 41 Produzioni, all'interno del quale teniamo aggiornati delle varie proiezioni, anche sul sito di Parallelo 41 Produzioni e anche sui social di Femminile Plurale, che è l'associazione appunto di Marina Ricca, che si occupa dei laboratori. Il documentario Si dice di me. Un saluto e un ringraziamento alla regista Isabella Mari. Alla prossima! Grazie a tutti, ciao Federico, grazie per questo spazio. Con Stefano Sant'Amato, regista del documentario Basilico, l'infinito è là in fondo. Ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Presentaci questo lavoro. Basilico, l'infinito in fondo, è un documentario biografico sull'opera e la vita di Gabriele Basilico, architetto ma soprattutto fotografo di architettura e di paesaggio, scomparso ormai 12 anni fa e la cui opera insomma ha ispirato generazioni di fotografi e architetti, insomma il cui messaggio è ancora più che valido oggi a nostro parere. Come è nato il progetto? Il progetto nasce su un'intuizione, su un desiderio mio, da mia compagna Beatrice Gardella, che è autrice del documentario, insieme a Francesco Raganato, autore e bravissimo regista, che un anno prima circa della ricorrenza ai 10 anni abbiamo proposto noi di spontanea volontà all'archivio Gabriele Basilico e a Giovanna Calvenzi, moglie di Gabriele Basilico e reggente dell'archivio, di fare un lavoro su di lui. Questa proposta è stata accolta con grande entusiasmo e generosità, e in parallelo a questo l'idea è stata quella anche non solo di fare un film che ripercorresse le tappe principali della sua opera, ma anche provare a metterci anche un po' a rischio, e infatti abbiamo chiesto a Tony Thorinvest, che è un fotografo, grande amico di Gabriele Basilico, ma che non si occupa di fotografia d'architettura, di organizzare per il film un workshop con 5 giovani autori e fotografi per provare a mettersi in confronto, insomma in relazione con la sua opera. E questa piccola avventura, questo workshop è un po' il filo rosso che accompagna tutta la narrazione del film dall'inizio alla fine. Come lo hai strutturato? La narrazione del lavoro di Basilico è molto consolidata, c'è un lavoro iniziale che è quello di Fabbriche del 78, che racconta gli spazi della periferia di Milano, questi spazi produttivi che di lì a poco sarebbero stati tra l'altro abbandonati, e poi ci sono dei capisaldi nella narrazione del suo lavoro, c'è Beirut nel 91 e l'avventura della Datar negli anni 80. E tante altre cose, però quel lavoro lo abbiamo fatto con attenzione, tra l'altro guidati da Giovanna Calvenzi e tante altre persone esperte, anche molto più di noi, sul lavoro di Basilico. Quindi c'è il racconto del lavoro e della grande sterminata opera di Gabriele Basilico. Dall'altra, appunto, in parallelo vediamo 5 trentenni guidati da un fotografo reporter, si avventurano in giro per la città e provano a costruire un tributo su Basilico, che aggiunge senso e storia a questo film. Cosa hai apprezzato della sua opera? Di Basilico a me è sempre piaciuto tutto, ma soprattutto la sua capacità di essere allo stesso tempo scientifico, descrittivo, oggettivo, ma estremamente suggestivo. Qualcuno lo definisce quasi un romantico per certi versi, c'è un gran dibattito in merito, però diciamo questa sua capacità di mettere insieme un linguaggio serio e rigoroso con uno invece più emotivo, ecco, questa capacità è per me molto preziosa e la reputo ancora una cosa grande, ecco, a cui guardare sempre. La scelta del sottotitolo? È una frase che lui stesso ha scritto su una delle sue fotografie in occasione di una pubblicazione che Abitare gli ha proposto di fare. Ovvero Abitare, sotto la direzione di Stefano Boeri, gli ha detto: queste sono le tue fotografie, facciamo delle lezioni di fotografia e scarabocchia sulle tue fotografie più iconiche e raccontaci attraverso questo lavoro di disegno, di commento, come queste fotografie sono state concepite, che cosa c'è dentro, gioca un po'. E lui su una fotografia che forse è la mia preferita, lui scrive: l'infinito è là in fondo, lontano e irraggiungibile, ed è una visione di una spiaggia o della Bretagna, della Normandia, che si chiama Merlimont Plage, in cui si vede un infinito, si vede una linea d'orizzonte, e lui giocando scrive: l'infinito è là in fondo dove si guarda. E l'ho trovato, insomma, a suo modo potente e che riuscisse in un certo senso a riassumere un atteggiamento che è quello che raccontavo prima, no? Quello un po' di essere allo stesso tempo, no? Descrittivo ma anche suggestivo. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo? Il film è on demand su Sky e Sky Arte lo ha mandato in onda varie volte, sicuramente quello è il riferimento principale, poi presto sarà, credo, su altre piattaforme, ma è un discorso in corso. In ogni caso, la mia pagina web, quella dell'Archivio Gabriele Basilico, oltre che quella della casa di produzione, che è The Blink Fish, di Milano, ovviamente aggiorniamo i nostri feed con le nuove importanti proiezioni. Il documentario Basilico, l'infinito, è là in fondo. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Santamato. Alla prossima! Grazie di tutto, ciao! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.